Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori e benvenuti a questo nostro appuntamento mensile con la lettura continua della parola di Dio. Voi sapete che il percorso che stiamo facendo è un percorso sugli Atti degli Apostoli. Siamo arrivati al capitolo 13. Ecco, prima di iniziare la nostra lettura e la nostra meditazione sul testo degli Atti, chiediamo il dono dello Spirito Santo, proprio perché quella che noi leggiamo non è una parola qualsiasi, così come il nostro obiettivo non è semplicemente quello di uno studio che arricchisce la mente. Il nostro desiderio è quello di permettere alla parola di essere viva dentro di noi per continuare a plasmare, a configurare la nostra vita rendendola conforme a Cristo. Questa sera ci misureremo con il primo grande discorso di Paolo nel suo cammino missionario. Chiedo a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di tenerlo davanti agli occhi. Teniamo presente che, come vi dicevo, siamo al capitolo 13 degli Atti e questa sera leggeremo il testo, un po' lungo a dire il vero, ma è necessario leggerlo tutto intero per capire il tenore del discorso di Paolo, lo leggeremo dal versetto 17 fino sostanzialmente alla fine di questo capitolo, il versetto 52. Quindi parte della nostra trasmissione sarà proprio dedicata alla lettura del testo. Di questa lettura poi faremo alcune annotazioni e alcune riflessioni che possono servire al nostro cammino e al nostro approfondimento. I primi discorsi degli Apostoli all'interno del Libro degli Atti hanno un valore particolare, hanno un valore molto importante. Perché? Perché diventano una sorta di catechesi di base per la comunità cristiana e per i destinatari a cui gli Apostoli si rivolgono in merito a quelli che erano gli elementi essenziali dell'annuncio cristiano. Se il primo discorso di Pietro, in concomitanza con la discesa dello Spirito Santo nella prima Pentecoste, era rivolto essenzialmente a un pubblico giudaico, il discorso di Paolo, il primo discorso missionario di Paolo, si rivolge a un pubblico misto ed aprirà, lo vedremo, le porte in modo molto decisivo a un'altra anima della prima comunità cristiana, quella di origine pagana. Quindi i due discorsi, il primo tenuto da Pietro a margine del capitolo 2 e questo tenuto da Paolo a margine del capitolo 13, sono come due grandi discorsi complementari che racchiudono in sintesi la ricchezza dell'annuncio cristiano. Ma mettiamoci subito in ascolto del testo e vedendo insieme come si apre questo primo grande discorso di Paolo, cioè qual è l'elemento che Paolo mette alla base su cui si può poi costruire l'annuncio cristiano. Vedremo che è un aspetto che può essere molto utile a ciascuno di noi, perché senza questa base, senza la base sottolineata dall'Apostolo Paolo, è difficile non solo vivere il discepolato, ma anche testimoniare una fede autentica. Allora leggiamo il testo, siamo capitolo 13, dal versetto 17 in poi. Paolo, alzatosi e fatto segno con la mano, disse: «Uomini di Israele e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto e con braccio potente li condusse fuori da quella terra. Per circa 40 anni li assistette nel deserto. Poi distrusse 7 popoli nella terra di Canaan e diede ad essi in eredità la loro terra. Tutto ciò nello spazio di 450 anni. Quindi diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Poi chiesero un re e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. Dopo averlo deposto, suscitò loro un re, Davide e gli rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua stirpe Dio, secondo la promessa, trasse un salvatore per Israele, Gesù. Giovanni, prima della sua venuta, aveva predicato un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. E quando Giovanni stava per portare a compimento la sua missione, diceva: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia, ma ecco, viene dopo di me uno a cui non sono degno di slegare i sandali dai piedi». Questa è la prima parte del discorso di Paolo, il primo, come dicevo, il primo grande discorso missionario di Paolo. Ecco, il discorso comincia con, possiamo dire, una prima parte, un primo capitolo, un'introduzione che sottolinea, fa una sintesi di quella che è la storia antico-testamentaria fino alle porte del Nuovo Testamento, fino ai primi attimi del Nuovo Testamento. Potremmo dire che quello che Paolo racconta in questi versetti è proprio l'oggetto del tempo liturgico che stiamo vivendo. Subito dopo il Natale, la liturgia ci fa riflettere su queste pagine. Proprio in questi giorni c'era il racconto, ad esempio, della scelta di Saul come re di Israele. Proprio in questi giorni è stata evocata la figura di Giovanni Battista che fa due passi indietro perché Gesù possa iniziare il suo ministero pubblico. Cioè è un modo in cui la liturgia, prima di farci diventare, sostare sul discepolato di Gesù, ci richiama tutto quello che Dio ha operato nell'Antico Testamento. È interessante ripercorrere questi versetti, dal versetto 17 in poi, sottolineando i verbi utilizzati. Paolo non li sceglie a caso. I verbi utilizzati, prima di tutto, sottolineano l'azione di Dio. Dio scelse i nostri padri, esaltò il popolo durante la sua dimora in Egitto. Poi ci dice cosa ha fatto con il popolo. Dopo averlo esaltato, lo conduce fuori, lo assiste nel deserto, distrugge i popoli nella terra di Canaan, in modo che il popolo possa avere in eredità la terra. A questo punto i verbi condurre fuori, assistere, distruggere confluiscono nel verbo per eccellenza, il verbo del dono. E allora Dio dona prima i giudici, poi dona Saul come re, poi dopo aver deposto Saul dona un altro re, Davide, quindi altri tre verbi. E alla fine di questo percorso costruito sui verbi, il nono verbo utilizzato è quello che porta a trarre dalla storia, trasse per loro un salvatore di nome Gesù. Allora, notiamo che il primo grande discorso di Paolo, oltre a giocare sul dato numerico, i verbi non a caso sono nove, che indicano la pienezza dell'azione di Dio che giunge al compimento nel dono di Gesù, vogliono tutti presentare un Dio vivo all'interno della storia, un Dio che opera nella storia d'insieme, nella storia sociale, religiosa di Israele, ma anche nella storia dei singoli. Ecco allora questo Dio che sceglie i singoli ma esalta il popolo, sceglie Saul ma conduce fuori dalla terra Israele, suscita Davide ma assiste anche il popolo nel deserto, distrugge i popoli ma trae anche un salvatore. Cioè c'è sempre questa doppia caratteristica, un Dio che come il pastore è attento all'intero popolo, ma come il vero pastore è attento anche al singolo, lo suscita, lo guida, lo assiste. La cosa più importante, più significativa di tutti è che il Salvatore matura all'interno di questa storia, trasse per loro un Salvatore, Gesù. È importante, Paolo nel primo annuncio, che tra l'altro ha come destinatari non solo i giudei che si sono convertiti al cristianesimo, dice Paolo alzandosi, no? uomini di Israele, e voi che temete Dio ascoltate, cioè il suo pubblico di destinatari è duplice, sono coloro che sono giudei dalla nascita e ci sono i timorati di Dio, cioè coloro che sono pagani ma si affacciano al giudaismo alla ricerca di qualcosa di diverso, quindi ci sono giudei e ci sono pagani, entrambi ascoltano il discorso di Paolo. E il primo annuncio che Paolo porta è l'annuncio di un Dio che opera all'interno della storia del popolo e all'interno della storia del singolo. Ed è un Dio che manda il Salvatore non solo dall'alto, ma lo trae dalla trama contorta della storia. E il fatto che lo tragga dalla trama contorta della storia emerge dalle figure che vengono evocate, perché Saul, si sottolinea subito, Saul figlio di Chis e della tribù di Beniamino, però deve essere deposto perché ha combinato qualcosa che non è buono. I giudici sono tutti emblema di una storia che alterna le luci alle ombre. Il deserto è un momento di passaggio dove il popolo è messo alla prova e non sempre esce vittorioso dalla prova. Ugualmente le lotte distrusse 7 popoli nella terra di Canaan, dice il testo, non sempre queste lotte sono vittoriose per Israele a motivo del peccato di Israele. Nonostante ciò Dio sa trarre da questa storia. Ugualmente la storia di Davide non è sempre una storia luminosa, una storia segnata dal peccato, però Dio sa trarre da questa storia il suo Salvatore. E allora emerge fin dal capitolo introduttivo, se vogliamo, all'interno del quale poi Paolo incastonerà il suo annuncio, il credo antico, il credo che lui propone a coloro che lo ascoltano, mette all'interno, sottolinea in questa parte introduttiva proprio l'azione di un Dio che si incarna nella storia dell'uomo e che allo stesso tempo mette in guardia i suoi da errate interpretazioni, perché quello che poi viene attribuito a Giovanni prima della sua venuta dice io non sono colui che voi pensate che io sia, è un modo per invitare gli ascoltatori a non compiere errori. C'è certo un'attesa all'interno del popolo, ma questa attesa deve stare attenta a non far coincidere la logica umana con la logica divina, perché Dio interviene nella storia in modo diverso da quello che si attende l'uomo. L'uomo si attenderebbe un arrivo di Dio dall'esterno, Dio invece trae il Salvatore dall'interno di Israele. L'uomo aspetta un Dio potente che si manifesta all'insegna di miracoli, di prodigi, attraverso azioni eclatanti. Dio invece manderà il suo figlio in modo del tutto diverso. Quindi è molto importante tenere presente questo capitolo introduttivo, perché ci fa capire come Dio interviene all'interno della storia incarnandosi nella trama dei suoi. Allora lasciamo un attimo un breve stacco musicale in modo che anche voi ascoltatori possiate rileggere questi versetti, ripeto, dal versetto 17 al 25, provati a rileggerli facendo attenzione ai verbi. Quindi un breve stacco musicale, poi continueremo con la seconda parte del discorso. Quindi dopo la parte introduttiva, dove appunto San Paolo rievoca la storia del popolo di Israele, in questa storia da cui Dio trae il Salvatore, ecco l'annuncio del Messia. Allora leggiamo i versetti che vanno dal 26 al 37. Ascoltiamo il testo. Fratelli, figli della stirpe di Abram e voi che temete Dio. È a noi che è stata mandata questa parola di salvezza. Infatti gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, misconoscendolo e non comprendendo gli oracoli dei profeti che si leggono ogni sabato, lo hanno condannato e così li hanno adempiuti. E pur non avendo trovato nessun motivo per condannarlo a morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. E quando ebbero adempiuto tutto ciò che era stato scritto di lui, lo calarono dal legno e lo misero in un sepolcro. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti ed è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali ora sono suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi portiamo il lieto annuncio della promessa fatta ai padri, poiché Dio l'ha adempiuta per noi loro figli, facendo risorgere Gesù come è scritto nel Salmo II: tu sei il mio figlio, io oggi ti ho generato. Che poi lo abbia fatto risorgere dai morti, così che non ritorni più alla corruzione, lo ha detto affermando: darò a voi le cose sante di Davide, quelle certe. Per questo in un altro passaggio dice ancora: non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Davide infatti, dopo aver servito nel suo tempio la volontà di Dio, si addormentò, fu deposto coi suoi padri e conobbe la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha conosciuto la corruzione. Allora, prima abbiamo visto come la prima parte del discorso di San Paolo affondasse nell'Antico Testamento, cioè lui ha proposto una sintesi delle opere di Dio, un Dio che opera nella storia. In questa azione di Dio, l'azione per eccellenza, l'evento per eccellenza è quello che concerne Gesù. E notiamo, gli elementi che scandiscono l'evento Gesù Cristo sono la sua passione con la condanna a morte, la sua morte, fu ucciso, lo calarono dal legno, lo misero in un sepolcro, la sua risurrezione, Dio lo ha risuscitato dai morti, e le apparizioni che confermano la risurrezione, ed è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. Notate, sono gli stessi elementi che noi troviamo nell'antico credo della comunità cristiana attestata al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, dove San Paolo dice: fu ucciso secondo le scritture, fu sepolto secondo le scritture, Dio lo ha risuscitato secondo le scritture e apparve a molti, a Cefa, più di 500 fratelli e così via. Sono gli stessi elementi, la condanna, la morte, la risurrezione, le apparizioni. È l'antico credo, è spiegato in briciole, se volete. E l'introduzione della seconda parte è simile alla prima. Nella prima parte del discorso Gesù si rivolge dicendo: uomini di Israele, voi che temete Dio. La seconda parte del discorso dice: fratelli, figli della stirpe di Abram, e voi che temete Dio. Notiamo una sfumatura da parte di Paolo. Paolo chiama i fratelli giudei figli della stirpe di Abram, non li chiama figli di Mosè, come se volesse fin d'ora, nel proseguio del discorso, allargare gli orizzonti di coloro che lo ascoltano. Tutti i veri figli di Dio sono visti secondo una categoria inclusiva, che è quella di tutti coloro che si radicano in Abramo, che non sono solo i figli di Israele, ma sono tutti coloro che temono Dio. Quindi c'è sempre di più da parte di Paolo questa attenzione a coloro che sono in ricerca di Dio, ma che non provengono dal giudaismo. La seconda parte del discorso, rispetto alla prima, ha il desiderio da parte dell'Apostolo di sottolineare l'azione forte del Dio che risuscita e trasfigura. Ciò che rende diversa l'azione di Dio in Cristo rispetto a tutto quello che è stato operato precedentemente è la risurrezione. Per ben tre volte dopo l'enunciazione del credo, Paolo sottolinea che Dio ha fatto risorgere Gesù dai morti. Lo dice al versetto 33, lo ripete al versetto 34, lo riconferma al versetto 37, dopo aver enunciato il credo. E questo ci fa capire che al cuore dell'annuncio cristiano, fin dalle origini del cristianesimo, c'è il grande mistero della risurrezione. Il cristiano non può essere per identità una persona che si lascia sopraffare dalla morte e da tutte le ancelle della morte. Le ancelle della morte sono il peccato, le ancelle della morte sono il senso di sconfitta, lo sconforto, lo scoraggiamento, l'atteggiamento di chi si dà per perso. Il cristiano è per eccellenza il figlio della risurrezione, e la risurrezione significa sempre, come dire, possibilità di rilanciare la propria esistenza, riaprire le porte della vita, non sentirsi schiacciati dall'esperienza della morte, perché la vita, il bene, ciò che è positivo, trionfano sempre su tutto. È un messaggio molto forte, che certo l'uomo non si dà da solo, anche perché per ben tre volte Paolo sottolinea che Gesù non è risorto da solo, Dio lo ha fatto risorgere dai morti. C'è proprio questa evidenziazione nei versetti 33, 34 e 37, dove viene ripetuto questo concetto. E qui sta anche la differenza tra l'evento compiuto in Davide e l'evento compiuto in Gesù. Paolo lo sottolinea molto bene. Davide ha conosciuto la corruzione dopo essere vissuto nel suo tempo, è stato messo nel sepolcro e la sua vita è andata incontro alla corruzione. Gesù invece ha percorso il mistero della condanna a morte, della condanna sul legno, è stato deposto in un sepolcro, ma non ha conosciuto la corruzione. In lui la morte non è riuscita a vincere, tutto ciò che è negativo non è riuscito ad avere la meglio su Gesù. Si apre così all'interno della storia un evento nuovo, una porta nuova che nessuno può più chiudere. Questo aspetto nell'annuncio cristiano dell'origine, soprattutto in questo primo grande discorso di Paolo, vuole proprio mettere al centro la novità cristiana. Non abbiamo più a che fare solo con un Dio che sceglie, un Dio che accompagna il popolo, un Dio che lo assiste e che gli dà prima i giudici, poi il re. Abbiamo a che vedere con un Dio che risuscita. Un Dio che pone al centro della storia dell'uomo la risurrezione. Ora, noi come cristiani del XXI secolo siamo, come dire, abituati ad un annuncio che ci viene rivolto oramai da secoli e che non ci stupisce più. Ma teniamo presente che quando Paolo fa questo annuncio, tra quelli che lo ascoltavano c'erano persone che alla risurrezione mica ci credevano, lo sappiamo già dai Vangeli. Nell'ebraismo del primo secolo c'era tutta una classe, quella dei Sadducei, che non credeva alla risurrezione, eppure erano tra i rappresentanti e più in vista dell'ebraismo. I farisei invece, che sono la corrente da cui Paolo proveniva, credevano alla risurrezione. Soprattutto era difficile però immaginare, credere come questa risurrezione potesse avvenire. Se voi andate a leggere il capitolo 15 della lettera ai Corinzi, notate come Paolo cerca di rispondere in quello scritto a tutte le domande che nascevano all'interno delle comunità cristiane sulla risurrezione. Come risorgono i morti, con quale corpo si prefigurano, cosa succede nel momento in cui una persona muore. Tutte domande che fanno capire che all'inizio della comunità cristiana quello che veniva annunciato da Paolo non era una cosa così evidente. Ecco perché, lo vedremo, ciò che lui annuncia, ciò che lui propone all'uditorio dei suoi ascoltatori susciterà anche delle reazioni negative, perché obbliga a rileggere tutto quello che il Signore ha fatto nel passato in modo del tutto nuovo. Paolo, da un lato, si pone in continuità con le scritture ebraiche, perché la sottolineatura che lui fa è quella di un Dio che ha sempre operato nella storia trasfigurandola, operando dei grandi cambiamenti. Ma allo stesso tempo il suo discorso richiede un salto, richiede una rottura rispetto alla continuità dell'Antico Testamento, perché chiede di una sorta di salto nel vuoto quando parla della risurrezione, perché è qualcosa che non può essere, spiegata in tutti i suoi dettagli. E questo spiegherà appunto le domande successive della comunità cristiana. Quindi la seconda parte del discorso, quella che abbiamo visto nei versetti dal 26 fino al versetto 41, dal versetto 26 fino al versetto 37, sottolinea questo aspetto. Tra gli eventi di Dio, l'evento per eccellenza è quello della risurrezione. Lasciamo ancora una volta un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere con questa chiave i versetti dal 26 al 37, poi vedremo come continua il discorso, quindi la terza parte del discorso, che è la cosiddetta perorazione finale. Paolo, dopo aver annunciato l'Antico Testamento, dopo aver annunciato l'evento di Gesù, trae le fila per i suoi ascoltatori, quindi ci manca la parte finale e poi la reazione di chi ascolta. Un breve stacco musicale. Quindi in questo primo grande discorso dell'Apostolo Paolo abbiamo visto la prima parte, dove Paolo fa la sintesi della storia antico-testamentaria con le grandi opere di Dio. Dio è emerso come colui che opera nella storia dell'uomo. La seconda parte, da queste opere di Dio si arriva all'opera per eccellenza, che è quella di Gesù, sostando soprattutto sugli elementi essenziali del credo più antico, quindi la passione, la morte, la risurrezione e le apparizioni di Gesù. A questo punto si entra nella terza parte. Come sottolineare, si chiede Paolo, l'elemento della risurrezione, che non è tangibile a tutti. Certo, uno dice Cristo è risorto, è apparso, tante delle persone a cui è apparso rendono testimonianza a noi, però come ognuno può sperimentare la forza della risurrezione? È il contenuto dei versetti dal 38 al 41, la parte più breve e conclusiva del discorso, che funge un po' però anche da vertice di quello che Paolo dice ai suoi ascoltatori. Ecco, teniamo sempre presente, gli ascoltatori che Paolo ha davanti a sé sono due gruppi, i giudei, coloro che sono nati giudei, e i timorati di Dio, che sono sostanzialmente dei pagani che si affacciano al giudaismo per capire qualcosa di più di Dio. Il vertice quindi è in questi versetti 38-41 che ascoltiamo. Vi sia dunque noto, o fratelli, che per mezzo suo a voi è annunciato il perdono dei peccati. Da tutto ciò di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè, per mezzo suo, di Gesù, chiunque crede è giustificato. Guardate perciò che non s'avveri per voi la parola dei profeti. Guardate, o spregiatori, stupitevi e allibite, perché ai vostri giorni farò un'opera tale che non ci credereste se ve la raccontassero. Ecco, questo è il punto conclusivo del discorso di Paolo, dove Paolo dice: vi ho fatto la sintesi di quello che Dio ha compiuto nella storia antico-testamentaria per noi che leggiamo oggi. Vi ho detto dove ha portato l'azione di Dio, nell'evento per eccellenza che è l'evento di Gesù. Bene, di fronte a questo annuncio non si può stare a guardare. Di fronte a questo annuncio bisogna operare una scelta. E la scelta è quella di la scelta proposta ovviamente da Paolo è quella di aderire in tutto al Cristo, sapendo che Cristo può far operare la risurrezione nel cuore di ciascuno attraverso l'esperienza del perdono. Quindi non solo un Dio che opera nella storia, non solo un Dio che risuscita e trasfigura, ma un Dio che compie tutto questo anche in me oggi attraverso l'esperienza del perdono e attraverso l'esperienza della misericordia. Tra l'altro Paolo ribadisce e sottolinea al suo uditorio, teniamo qui ben presenti i due ambiti del suo uditorio, che tutto questo non è possibile attraverso la legge di Mosè, ma è possibile solo attraverso l'esperienza e l'incontro con Cristo. La legge ti dice quello che tu non devi fare. L'incontro con Cristo invece mette in azione dentro di te il dono, il seme del bene. Ecco, noi veniamo da una cornice liturgica come quella di ieri, che ci ha presentato nella liturgia domenicale l'episodio, il segno delle nozze di Cana. Ecco, provate anche solo a pensare come l'Evangelista, il quarto Vangelo, ieri ci diceva questo, quello che è successo a Cana di Galilea, fu l'inizio di tutti i segni di Gesù. In quella frase il quarto Vangelo non voleva solo dare, come dire, un elemento temporale, quasi a dire in ordine di tempo questo è stato il primo di tutti i miracoli che Gesù ha fatto. No, il significato